Intanto saluto tutti i nostri ospiti, benvenute alle signore e signori. E dopo una breve pausa carnevalesca abbiamo deciso di riprendere. Il tema di questa sera sarà comunque un tema anche che si presta all'ironia. Abbiamo con noi Pietro Carrara, che ringrazio, anzi Pietro Alessandro Carrara, che ringrazio di essere venuto nella nostra biblioteca. Come facciamo sempre, sulle sedie lasciamo così un opuscolo che illustra i servizi che questo ente pubblico eroga e mette a disposizione della pubblica utenza. Abbiamo anche sempre lasciato, e anche questa volta, un modulo di iscrizione che è assolutamente gratuito, ma questo vi permette di accedere ai prestiti e soprattutto anche a una novità di pochi mesi, che è l'accesso online anche da casa di riviste e periodici in 50 e più lingue. Sono 1900 titoli che con il proprio iPhone eccetera si possono leggere anche da casa, solo che il passaggio necessario è quello di iscriversi alla biblioteca. E inoltre, ecco, avremo di volta in volta, vi aggiorneremo anche sulle novità, perché questo è un 2013 intenso e avremo altri servizi che stiamo predisponendo sempre a titolo gratuito. Avete anche delle cartoline sulle prossime iniziative. E saluto voi e il nostro ospite anche da parte dell'assessore Tomasini, che è il presidente di questa biblioteca, e iniziamo a chiacchierare con Pietro Alessandro Carrara, che è un collega però dell'ente appunto comunale e ha scritto questo primo romanzo? Il quarto! Dimentico che abbiamo anche lì. Ho svariato diversi temi perché... Poi spiego anche perché sono arrivato qua. Sì, ecco, lavora in comune e questo romanzo, diciamo, possiamo anche definirlo ambientato anche in questo micro-macrocosmo del comune di Bolzano. Ci sono dei personaggi che vengono descritti, tratteggiati, delle situazioni che suscitano anche dell'ilarità, sono tratteggiati in maniera veloce, sono delle pennellate molto veloci e anche con dei giochi allusivi sul suono del nome, per un certo tone Fricket, ecco, diventa il Fricchettone, il Carlo diventa il Vada a cercarlo, eccetera eccetera, no? Quindi è un libro che si legge e si ride, insomma, anche nelle varie situazioni, strappa il sorriso in maniera anche veloce. Poi ci sono dei momenti dove si indulge magari in un linguaggio più colorito, descrizioni un po' più grottesche anche, no? Quindi ci sono anche delle situazioni, e l'idea che mi sono fatta leggendolo è un po' come quando si vedono questi film, telefilm a puntate, Camera Caffè, mi è venuto in mente il Camera Caffè, quando si racconta dei colleghi di quello che fanno di bizzarro, delle caratteristiche, senza essere offensivi, ma sicuramente c'è un'ilarità in ciascuno di noi che può risultare più o meno evidente e strappa il sorriso, insomma, in queste occasioni un po' rilassate. Un libro che si legge velocemente, ma non voglio anticiparvi i contenuti. Ecco, una cosa che mi interessava, soprattutto questa sera, che Pietro Alessandro Carrara è venuto in questa biblioteca, ed è questa una biblioteca che si dedica anche agli scrittori del territorio, sapere come si arriva a scrivere un romanzo con un titolo anche abbastanza inquietante all'inizio, perché Cinque passi nel delirio. Ecco. Con una vettura e una foto ritoccata, quindi ci racconti un attimo come sei arrivato a quest'ultima produzione, visto che il panorama umano era radio e ricco. 20 anni di comune, come uscire? Calma, non sono quello chiuso in un ufficio che mi posso muovere, è quello, sempre quello, no. 20 anni di uscirato mi ha messo in contatto con tutti, e questa è la cosa più più bella, più, cioè, del mio lavoro io amo questa cosa, cioè, è più bella. Vedere tutti, memorizzare tutti, le sensazioni che uno ha in 20 anni, a un certo punto mi sono detto, calma un attimo, tragedie. Veramente ho passato delle tragedie, ma delle tragedie alla fin fine. Una volta superata dici, ma quanto sei imbecille. Tragedie perché? Sono momenti della vita alla fin fine. Anche andare a prendere la pasta la mattina, per dire, è una tragedia perché un cretino non ti dà la precedenza. Di precedenza non ce ne sono. Cioè, sei lì, dai tu, ce l'hai tu, cioè, non ha importanza. Siamo nella vita. In comune si vive. Si vive come si vive tutti i giorni. Tragedia, dicevo. Tragedia mia, tragedia di questi conflitti, queste gelosie, queste invidie. Dentro, dice no, non ci posso stare dentro. Ma come? Ci sono dentro come ci sono fuori, come ci sono tutta la vita. Allora mi sono detto, facciamo una cosa. Prendiamo sensazioni della vita e mettiamole dove? Qui, in comune. Perché? Perché ci lavoro da 20 anni, perché io sono l'usciere, io sono il fricchettone per eccellenza. Ma come? L'usciere, l'ultimo proprio. Eh sì, l'ultimo, no? Intellettuale. Come intellettuale? Qua in questa società chi è? Gli intellettuali sono emarginati. Siamo tutti dei lavoratori, non siamo nulla di più. Uno che si reputa intellettuale o che sfoggia questa sua... No, va messo da parte. E allora mi è venuto in mente di scrivere così. Però dico, sì, mettere a sorridere una cosa che può sembrare tragica, veramente. Mi è venuto in mente che 30 anni fa ho fatto il carabiniere. Aspetta un attimo. Quante barzellette ci sono sui carabinieri? 2 o 3, tutto il resto di età. E allora? Perché i carabinieri? Parliamo degli uscieri e di tutto quanto ne può conseguire intorno. E allora, così pensando, così mettendo, così inventandomi dei personaggi che, in cui posso prendere un difetto piccolissimo e enfatizzarlo al punto di sembrare una cosa, oppure un pregio e sminuirlo, oppure dire no, aspetta, facciamo un personaggio diverso, prendiamo un pezzo di quello, un pezzo di quello, un pezzo di quest'altro, gli diamo un nome e questo rappresenta 10 persone, non una, 10. E mi sono inventato, trasfigurato situazioni vere in situazioni di fantasia, cioè le ho fatte più vere di quelle che sono, che uno legge e dice no, ma questo ne ha tanta di fantasia. Le ho fatte più vere di quelle che sono. E vengono fuori ridicole, completamente ridicole. E allora ho suddiviso un'unica trama, un'unica, cioè da un inizio a una fine, l'ho divisa in 5 capitoli. A cui dico, devo dare un titolo? No. Posso prendere un pezzo di canzone, delle canzoni italiane. Posso dire. Un jukebox, no? Con, esatto. Con queste selezioni di cantautori italiani. Sì, esatto. Che adesso, mi piacciono tantissimo. Come dire, ma allora qualcuno ha fatto delle profezie, 20, 30 anni fa. E dico, sono Giorgio Gaber, e pensare che c'era il pensiero. L'appartenenza non è lo sforzo di un civile stare assieme, non è il conforto di un normale voler bene, l'apparenza è avere gli altri dentro di sé. Avere gli altri dentro di sé vuol dire vivere in una società indipendentemente dal ruolo che uno ha, ma sentire la gente dentro di sé, cioè dire questo è mio amico ma quello lo odio, no, è lo stesso, tu sei mio amico, io ti odio ma devo sentirti dentro di me. Perché comunque viviamo insieme, comunque dobbiamo. Invece le situazioni che ho raccontato non sono proprio così. C'è anche Lucio Dalla, no? Adesso qua c'è anche De Gregori. Adesso arrivo. I grandi. Sì. Arrivo, non farti cadere le braccia di Edoardo Bennato. Ecco. vedi, il pezzettino dice, sei testardo, questo è sicuro, quindi ti puoi salvare ancora. Metti tutte le tue forze che hai, i tuoi fragili nervi. Il fragile nervi è quello di sopportare proprio una società. Dici, ma porca col miseria, cazzo. Vivo Bolzano, non è una metropoli, ma vivo Bolzano. Cioè, Bolzano è al centro, cioè, è al centro del mondo, lo conoscono tutti, c'è una convivenza, c'è un'infinità di culture, ma... No, c'è un muro. C'è un muro. Un muro c'è. Ma come cacchio. Ci siamo uniti per, diciamo così, urbanizzare questa città che era tutta una palude, eccetera. E adesso ci dividiamo nel condominio, nei vicini di casa. E anche questo l'ha portato nel comune. Come siamo colleghi, così. Non mi posso fidare di te. Perché? Perché se appena ti giro le spalle qualcosa succede? Ma fragile nervi, fino a un certo punto, tiro fuori i denti. Non farti cadere le braccia. E questo capitolo del non farti cadere le braccia, chi vede come protagonista? Ma sempre quell'intellettuale di Usciere che c'è in giro, che si permette di dire, ma... Tone fricchettone, sì. Che si permette di dire, ma come, scusa, cosa dici contro di me? Non è vero per niente. Sì, tu sei colpevole. Io? Sì. Ma come? Aspetta un attimino, che tiro fuori i miei denti. Sembrava quello che sono, sembrava fricchettone, però aspetta un attimo. Da qualche parte ci sono anch'io. Non farti vedere il braccio. Poi arriviamo a Battiato. Perché Battiato, vediamo che ho scritto, devo riguardarlo anch'io. Mister Tamburino, non ho voglia di scherzare. Rimettiamoci sì. La maglia, i tempi stanno per cambiare. Siamo figli delle stelle, pronipoti di sua maestà il denaro. Prima c'è, no, questo viene dopo come conseguenza. Sì. Lucio Dalla l'anno che verrà. Conoscete tutti, no? L'anno che sta arrivando, tra un anno passerà. Io mi sto preparando e questo. Come dire, cacchio, va via quel testo alla minchia, va via, cambia tutto, madonna che bello, van via questi dirigenti così. Facce nuove, visi nuovi. Cambia niente. Cambiare tutto per non cambiare niente. Esatto. Questo è riferito. Io non voglio fare propaganda politica, ma oggi mi hanno chiamato, l'avrei fatto anche un anno fa la presentazione. Ma cambierà qualcosa? Appunto. Spero che non sia una profezia, mi auguro tanto. E qui appunto sto raccontando che c'è questa grande speranza che veramente... In effetti forse qualcosina, però le difficoltà ci sono sempre, le incomprensioni, è un lungo lavoro di riorganizzazione di una società. È quello che voglio fare nel prossimo libro su Bolzano intero. Quindi uscito dall'ambito professionale, lavorativo, dei rapporti con i colleghi o comunque di questa varia umanità da cui è composto l'ambito di lavoro, e invece aprirsi a quella che è l'habitat naturale. D'altra parte col mio lavoro, io il pubblico praticamente ce l'ho da quando inizio a quando finisco, e viaggio intorno a Bolzano, vedo tutto e tutti, e io lo vedo con una serenità, con una professionalità, che dico, è il mio lavoro, umile finché vuoi, però è importante. Come è importante il mio, deve essere importante anche quello più alto vertice. Siamo tutti uguali, siamo tutti per... Ognuno lavora per sé, per gli altri. E tutti quanti devono essere soddisfatti come se fossi soddisfatto io. Un servizio. Questo, un invito proprio alla globalizzazione, ma non globalizzazione nel senso cattivo, ma nell'unione. Per ultimo, De Gregori, che questo è proprio il capitolo finale, legato a tutti gli altri, proprio con un filo abbastanza logico. La fine di un killer. Questo è di che anno è? Del 2004, mi sembra. Non fu il coltello che tagliò, non fu la lama che la luna che tramontò, non fu la stella che schiarì la notte, la notte che arrivò e che ci illuminò. E qui non vi dico come va a finire perché è bello che. Allora, quindi praticamente questo libro racconta un po' del, diciamo, prevalentemente incentrato, da quello che ho potuto leggere, sui rapporti all'interno, quindi vengono descritti questi colleghi o questi assemblaggi di caratteristiche di vari colleghi con cui si ha a che fare, ma il rapporto col pubblico, appunto, che anche quello è molto vario e soprattutto è imprevedibile, no? Perché il collega magari lo si conosce da 20 anni, se ne conoscono pregi e difetti e anche le reazioni a certe cose, no? Positive o negative. Invece il pubblico è sempre imprevedibile, anche noi in biblioteca siamo aperti e quindi non sappiamo chi viene, cosa vuole, come. Fronte, sì. Sì, non si sa, bisogna essere sempre abbastanza porosi, impermeabili e cercare di adattarsi subito anche a una certa situazione. Com'è stare in rapporto con il pubblico di un comune, dove i servizi sono variegati, non è una cosa filtrata come può essere il pubblico di una biblioteca che viene qui per una serie di motivi precisi, ma in comune vengono tutti l'ente di riferimento per il cittadino, per una serie di smisurata di servizi e di necessità. Per quanto mi riguarda, io lavoro per il pubblico. Appunto, 20 anni, 21 adesso di esperienza, mi hanno fatto crescere. Cioè, all'inizio dici, aspetta un attimo, aspetta che devo informarmi, Adesso, oltretutto, copro l'intero territorio, cioè tutti gli enti possibili immaginare, dalle scuole, commissariato al governo, cioè tutti gli enti li faccio servire. Quindi vedo tutti, il pubblico lo vedo dappertutto, lo vedo per strada, lo vedo quando mi taglio la strada una bicicletta, cioè io sono col pubblico, com'è il rapporto? Il rapporto deve essere sempre, da parte mia, io mi specchio sempre nell'utente, perché sono stato anch'io utente, e quante volte ho mandato l'ente, no, come utente io mi vedo, sono io che parlo con me, quindi deve essere così. Comunque anche quello è un bel bacino, no? Da cui attingere, perché la galleria è varia, insomma, le persone sono fortunatamente una diversa dall'altra. E se uno si mette in una posizione, osserva, può avere delle piacevoli sorprese anche, no? Ma ripeto, diciamo, questo che è venuto fuori sembrava strano, ma come ho detto prima, ma tutte le negatività che si vedono come una girando. Per positività dici, allora, per fortuna qualcuno c'è, che ne so, un bambino, cioè qualche gesto buono, che ne so. Ma tutta la negatività. Vediamole da un altro punto di vista, non da quello negativo, ma cerchiamo di vederlo da quello positivo. Mettiamoci a ridere su qualcosa, perché non sia, purché non sia drammatico. Che sia drammatico, un'altra cosa, che io non lo scrivo. Vediamolo dal punto di vista positivo, vediamolo allo specchio, che succede all'incontrario. Ci tengo a precisare una cosa, quando ho scritto questa cosa qui, non mi sono ispirato ad alcun film di Paolo Villaggio. No, è venuto fuori da solo così, per quanto riguarda il lavoro. Per quanto riguarda i carabinieri, invece, mi sono ispirato un po' al commissario Basettone, il Topolino. Perché? Cioè, che l'avevo eliminato perché non c'è più nei giornali. Cioè, ho detto no. Manetta anche c'era. Vediamo queste cose negative, vediamole un po' in un altro modo. Facciamo un fumetto. Così. Non tutte le persone sono portate per avere contatto diretto col pubblico. Io anche ho lavorato nel pubblico per 21 anni e mi ricordo perfettamente, io andavo abbastanza bene, a parte che non avevamo tanto pubblico, ma comunque avevamo. Ma avevo in particolare, mi ricordo, una cara collega che proprio non riusciva parlare, a... Si sono, capito? Si sono. Mm. Proprio non aveva, era né cattiveria né niente, era proprio il suo carattere così che mi veniva tante volte di intervenire io al suo posto, ma chiaramente non potevo, era lei aveva il suo. Sì, ma queste sono cose che succedono tuttora. Però certo. Non è da tutti. Se uno è propenso, propenso, se uno non è propenso, esatto. o è il tipico proprio, schematico. Buongiorno, prego, cos'è? Stanza, accendo. Sì, sì. Momento che chiamano. Punto. Sì, sì, che non dicono una parola in quanti? Più neanche. No, no. Quanti utenti, quando lavoravo ancora per il servizio rifiuti? Quando è successo il boom, mamma mia, ragazzi. Venivano, io che distribuivo i numeri anche perché non facessero bufera, insomma, venivano da 80-90 persone al giorno. Per fortuna quest'anno qua non ho dovuto fare l'IMU, per fortuna. Comunque sia, insomma, la gente che veniva proprio infuriata, più che dire. Qualcuno viene infuriato, qualcuno, a me è successo anche di piangere per telefono con gli utenti. Dico pure. Sì, un momento grave, ci siamo incrociate con sta persona in una situazione molto vicina, quella piangeva, io piangevo, davvero. Sì. Comunque, questa gente infuriata così mi fa. Ma adesso col capo bidoncino, no? Ci sarà. Lasciamo sempre. Penso che ci sarà un nuovo libro. Per fortuna che questa è la serve, io non so come. No, ma del tipo la gente viene. No, no, perché è così. Signora, non si sente. Ah, non si sente. Ma potete venire qua davanti perché adesso è un po' più facile. Parlo per loro. No, venite qua davanti, che secondo me è siamo un po' raccolti oggi. Allora, troppo. Ma allora c'è un problema che fa una risonanza talmente alta che rimbomba in continuazione. Non basta che si alza leggermente. Ma quando c'è 87 anni, non si parlate. Perché Segal ha lavorato anche in comune. Parlate per voi, parlate. Parlate per voi e non si capisce. Io parlo, e ho 87 anni, un po' di voce. È stato ingegnere capo in comune, ecco, quindi è coinvolto. Cos'è che l'hai? Dicevo che hai lavorato in comune come ingegnere capo. Sì, sì, 17 anni, 16, non so. Quello che non ha capito posso ripetere. Sì, ma alzi la voce, che sì. Capisco. Capiscono anche gli altri. Ma due parole, no? Volete venire? Ah, si vede, vai. Comunque, ecco, se andiamo in avanti. Perché registriamo meglio sul web. Se lei va lì, da voi, che siete meglio. Ecco. Anche voi mandate sempre i PG, non si sa anche l'argomento che si tratta. Ah, perché non si riesce a scaricare? Ma che modo è? Tutti non hanno mica il computer di PG, no? Metti il nome, il cognome. Siamo costretti ad aggiornarci con i programmi e dobbiamo usare sempre i programmi nuovi. Io so che non c'è la roba, ma... Vabbè, dai. Interazione. Allora. A me interessava, non so se anche a voi interessa, sapere il titolo, perché 5 passi di delirio sarebbe un po' anche curioso da capire. Un po' giallo. Ecco. Diciamo, da dove viene questa ispirazione, sempre che non comprometta la trama, ma ecco. Allora, adesso lo dico chiaramente. Il titolo mi è stato suggerito da lui. Ecco, il mio Reus Mortis. Perché lui, a differenza di me, guarda il film. Guardando i film mi fa, ma ascolta un attimo, ma ok, questa roba qua così, ma che titolo ci vuoi mettere? Non lo so. Per rendere meglio l'idea. Sì, c'era un film, 3 passi in delirio. Sì. Era una trilogia di thriller, horror, cose un po'. Sanguinolente. Trucide. Solo che il delirio è sì quello, ma il delirio è anche la demenza che tu vedi in giro. Avendo uno che lavora nella pubblica amministrazione in genere ne vede di cose folli. Quindi, sai, delirio per delirio, i capitoli sono 5, 5 passi in delirio mi sembrava la cosa più indicata. Bello. Ecco, chiarito. Quindi è una commedia dell'assurdo, insomma, questo libro. Sì. E che sono andato molto soft, diciamo, perché è il primo che ambiento a Bolzano. cosa ti scrivo? Posso dire tutto pubblicato sul web, dopo. Sì, vabbè. Perché dopo aver esordito. Perché a mia età il web e tutte queste robe tra voi le volevi. Troppo lana. Servono troppo lana. Allora, io lo so usare per caso, ma è bravo, eh. Bravo, è bravo. Insomma, direi. È bravo comunque l'ingegnere, perché. C'ha le mail, fa disperati. Anche la biblioteca che si fa lì, distruggono le Longoni. Ah, oggi ne parlavano proprio. Come ne parlavano? Oggi ne hanno parlato al giornale, al telegiornale regionale. Torniamo a bomba. Sì. Okay. Torniamo a bomba. Dopo che non scoppi la bomba. Stasera sentire con il nostro autore, perché appunto parlavamo del delirio, di questi cinque passi che sono i cinque capitoli, e di questa commedia dell'assurdo che rappresenta un po' la quotidianità anche negli uffici, con le particolarità delle persone, dei colleghi. Come ripeto, i personaggi me li sono inventati. Però prendendo spunto dai reali. Non è che si vede leggendo, diciamo, si vede che forse il personaggio, perché li conosce o perché ne ha già letto qualcosa, forse l'unico che si riconosce è il primo che costantemente va avanti con le sue bizzarrie, insomma, stravagante, però fuori. E non posso negarlo. Prego. Ma sta ancora lavorando o non lavora più? Ancora per 16 anni, 17 più o meno. Deve lavorare? Se va tutto bene. Sempre nello stesso posto. Se no, se no mi auguro, mi prevedo che a 72 anni, 73, il comune mi dia un girello per poter continuare a lavorare. Perché mi daranno la pensione, sì, ma solo se sarò presente al lavoro. Cane. In che senso? Che continua a lavorare, perché devono tagliare. Ma continua a lavorare, io ho lavorato fino a 65 anni. E finché si lavora, non c'è. Sì, Devono un'altra cosa volevo chiederle. Visto che è stato a contatto col pubblico, ho avuto anch'io, diciamo, un'attività dove ero molto a contatto col pubblico, e sappiamo tutti chi è stato a contatto col pubblico, come la signora. C'è una varia umanità, c'è la persona educata, quella maleducata, quella gentile, c'è quella che si affeziona anche. No, volevo arrivare a questo. Mi dà l'impressione che lei sia una persona pacifica, un po' pacciosa, senza voler, pacciosa in senso buono, no? Sì. Mi dà questa impressione. È solo un'impressione o è lei così? Come dicevo, quando c'è stato veramente il boom della lentezza urbana, cioè delle tasse sui rifiuti, che l'hanno raddoppiato, avevo dai 90 ai 100, 90-100 persone che mi assalivano. Qualcuno con due parole, vabbè, vai sul primo piano, qualcuno via così, ma qualcuno veramente era disperato. Cosa faccio? No, signore, deve stare in fila, no, così. Vabbè. Io lavoro in comune, sì, ma la bolletta arriva anche a me. Andiamo a berci un caffè. Sì, ma riusciva nelle situazioni di restare calmo. Io metto sul ridere, cerco di mettere sul ridere. Faccio la gente signora che... diceva che ci sono persone che sono adatte a stare davanti al pubblico, a gestire il pubblico. Ci sono persone che non sanno. Ecco, allora, senza volermi dare arie, io per esempio sono stata una persona che è stata sempre all'altezza di gestire le persone. La persona educata anche quella maleducata, di essere molto moderata. Mi dispiace, mio marito non è più qua, era una persona buonissima, però che non era una persona adatta a stare col pubblico. Certo. Assolutamente. Io ho sempre detto, col sorriso, ma certo, un po' col sorriso, anche forzato, ma comunque col sorriso. E poi vedi la persona arrogante, anche la persona arrogante. con la parola calmiamoci un attimo. Ma una volta c'era il diritto ai telefoni di Stato dappertutto usare cortesia. Sì. Almeno nei miei tempi, parlo degli anni 70, 60. La parola cortesia era di... Tanto se uno non ce l'ha, al tempo del fascismo si diceva non sputare in terra perché c'erano tutti i tipici e roba del genere. Certo. Del ragazzo questo. No, io posso dire di essere orgoglioso del mio lavoro. Anch'io. Da quello che mi auspicavo dopo aver fatto tanti anni di studi, la maturità, eccetera, così, trovarmi uscire, però anch'io. Adesso dico no, piuttosto uscire che dirigente, per il mio carattere. Per il mio carattere, perché io mi sento chiuso. Mi sentirei chiuso, diciamo, no? Ah, io ho bisogno dello spazio, ho bisogno dell'aria, ho bisogno della luce, ho bisogno della gente, perché sto bene con la gente. Sì, diciamo che è sicuramente un lavoro più vario, no? Perché porta ad andare in giro, a contattare. C'è molta responsabilità. Ogni lavoro ha il suo. C'è molta responsabilità perché. Uscire. Ah, ma devo uscire. Parlo degli uscieri del comune di Bolzano, quindi più di così. Ma li ho trovati molto gentili, meglio gli uscieri che i funzionari. Devo dire, sono andato in comune pochi mesi fa, ho trovato i due uscieri anche disabili, sono stati molto cortesi, che non ho trovato negli uffici. Quindi, non per niente ci hanno raccomandato dicendoci guardate che voi siete il filtro. Grazie. Siamo il filtro, sì. No, certo. Vabbè, insomma, una bella soddisfazione. Sì, no? Fino al filtro va bene, ma poi dateci anche qualche riconoscimento. Riconoscimento. Anch'io sono orgoglioso di aver servito, servitore con S maiuscolo comune. Dietro un compenso che è meglio che non ne parli, avevo anche gas e acqua sulle spalle, tutto il metano. Sì, non è il denaro, diciamo, ma per dire, bello, oggi, stamattina è la mia giornata, vado a lavorare. Quello è. Non dire che parlo, devo subirmi la mia collega, no, no, quello no. Posso una domanda? La mia curiosità è naturalmente questa. Il comune è fatto da dipendenti, quindi da dirigente a... per stabilire una certa categoria, uno sviluppo insomma all'interno della... La cosa che mi viene da pensare, questi rimangono in genere, fanno tanti anni per arrivare alla pensione, no? come si sente dire, e come andando al bar riesci a scoprire che insomma si allontana sempre di più questo aspetto della pensione. Però non è tanto questo. La mia domanda è un po' più cattivella, nel senso che i politici sono un po' diversi probabilmente, no? Perché allora entra in gioco tutto il discorso dell'arroganza, a volte del potere, però hanno anche un aspetto positivo, che dopo un po' se ne vanno loro, insomma, no? e riparte tutto di nuovo il discorso. Qual è stato il rapporto politico con i politici? Per capire se c'è una differenza poi in fondo, no? Nell'eseguire le proprie attività, ecco, questa è una curiosità mia, insomma, che penso forse ne esca, insomma, dal volume che lei ha scritto, no. Insomma, no? O se non esce, no. Non so, ci sarà una motivazione, ecco. No. Nei miei testi, in tutti e quattro, non ho mai incluso la politica. Io come ho fatto l'intervista sull'Alto Adige l'anno scorso e quest'anno sul Corriere dell'Alto Adige, la politica non c'è mai, perché la politica siamo noi. Cioè, no, ci sono dei rappresentanti. Sì. Insomma, no, un momento. Cioè io non voglio fare... Per me politica è ben chiara, insomma, il concetto di politica. Ci sono delle persone votate che debbono adempiere dei compiti ben precisi a favore del pubblico. Che punto. Quindi ci sono delle persone che deve prendere in considerazione, non mi può tenere ipotesi gli assessori, escludermeli o addirittura il sindaco, escludermelo dai suoi libri, perché altrimenti dico è un gioco di parte, insomma, no? Se vogliamo. Poi si dice, mi sono trovata meglio con questo. Ma qui è il rapporto umano che c'è, è la persona umana indipendentemente dalla cultura di cosa che fa. Certi, il comune. No, ma dico, io ho trovato degli assessori arroganti, degli assessori molto carini, che ti risolvono i problemi. No, io direi che gli assessori sono. Sì, però gli assessori, un comune, gli assessori, il sindaco, la parte politica ha a che fare al limite con i dirigenti o con. Diciamo che l'usciere con l'assessore o con il sindaco non ha praticamente niente a che fare, questo è il discorso. Cioè, diciamo che ti fai un'idea quasi come un esterno. Lasciatelo parlare. Se lui mi sa dare una risposta, io sono felice, lo mettiamo così. Cosa dici, Pietro? Allora, quello che ho scritto qua della politica è la premessa. La premessa che ho trovato da internet, dove il risultato, quello di Monitor Città, ha confermato che Bolzano è il primo livello come qualità di vita, come soddisfazione della cittadinanza, come bello, cioè la siamo i primi. Questa è la politica. Questo ho voluto metterlo come premessa. Quindi adesso ho parlato del mercato, del mercatino di Natale, cioè l'ha presentata bene, Bolzano, c'è un turista che qua e dice, è bella, funziona. Ma poi ho detto, ma funziona sì, ma grazie a chi? Grazie anche di uscire. Oh, questo mi piace. Questa è proprio, l'ho messa come premessa proprio. Perché dico, dai, devo presentarla, sto dicendo, devo far vedere che se uno legge senza una premessa sì, dice, ma dove siamo? Cioè, la verità è. Beh, io metto i dubbi che Bolzano sia prosciutto, da Monitor Città. No, ho vissuto a Trento, ho vissuto a Bolzano. Ma poi ognuno si sente bene in un posto. Bisogna vedere sotto che parametri era prima. Per esempio, Bolzano è il rifiuto peccatorum di tutte le immondizie. Bolzano all'area più inquinata, lasciamo stare i rapporti umani, che forse quelli ci sono dappertutto, la convivenza. Io quando sono andato in comune ho avuto rapporti con quelli di lingua tedesca. Oggigiorno se vai in provincia, caro mio, sei bistrattato quasi rispetto ai miei tempi, che eravamo pochi laureati e loro non avevano ancora di ricambio. Adesso tutti i posti sono occupati da quelli di lingua tedesca. Non è che l'abbia, si sono emancipati, hanno commesso. Allora parlare dell'università a Bolzano era un tabù. Poi perché ha messo l'università? Perché a un certo momento alle scuole medie non poteva più insegnare il signor Buratti, vice sindaco. Era maestro, si vantava di insegnare alle medie. Allora a un certo momento ha dovuto chinare e mettere l'università, facoltà. Questa è la realtà delle cose. Non è che Bolzano eccelle, eccetera. Su Bolzano ne riparliamo dopo. Che sentiamo un attimo, c'è un prossimo progetto. Prego. Lidia, che volevo chiedere, lei prima ha detto che questo è il suo quarto libro. E i tre precedenti erano sempre in parte autobiografici o erano completamente diversi? Ma come si fa a definire un autobiografico o meno? Ho esordito 4 anni fa con una assurda storia d'amore. Assurda perché? Perché racconto di un ragazzo di 35 anni con tutte le caratteristiche per avere una vita meravigliosa, una carriera meravigliosa, perché intelligente, perché e invece si becca tutte le sfighe possibili immaginare. Tutte. Poi, e lì non avevo ancora pubblicato niente perché ero alla ricerca di casa editrice, dico non l'avevo mai pubblicato, vediamo un po', chissà mai se mi prendono, ma vabbè. E anche qui dire autobiografia non si può, perché non si sa dove è la verità, anche perché l'ho ambientata a Trieste, è già questo. Poi nel 2009 mi sono comprato il computer portatile, cacchio che bello, me ne vado un paio di settimane a Sirmione ad accompagnare mio papà, adesso che ce l'ho qualcosa scrivo. Ero seduto al porto lì di Sirmione, mi guardo in giro e dico, ma cosa scrivo? Beh, l'ambiente è carino, ok? Ops. Vedo una turista che passa, bellissima, alta, bionda, dico, proprio sul margine del... del Darwin Faevi. Ecco, sì. Cosa? Ho detto... Modella che... E mi sono detto, questa qua la uccido. Mi è venuto di così, questa qua la uccido. Perché scritto il giallo. E adesso scrivo, ho scritto il mio primo giallo. La mente diabolica c'è. Cioè, no, dico no, avevo lì il computer che diceva, usami il computer. Appena preso, nuovo, cioè, vai, cacchio. E poi portatili, mai avuto, madonna, mi sfoco, bene. E anche lì ho fatto il mio carmesco, la varie case editrice, ho pubblicato, vabbè. No, dico, adesso, secondo il pubblico, no, calma. Devo cercare qualcos'altro. Ho incontrato un'amica, una vecchia amica, che fa, ho letto i tuoi libri, guarda che scrivi bene, eccetera, eccetera. Scusa, ma perché non racconti la mia storia? E racconto. E racconta la sua storia. Ah, secondo, se il mio non l'ha detto, mi racconta la sua storia, qui di Bolzano. Dico, stavolta andiamo a Udine. E racconto. Deve pensare. Poi spiego perché. Udine, poi mi sono girato un po' nel Vajont, ho fatto lì anche storia, storia e scienza, perché ho fatto delle ricerche proprio scientifiche. Quello l'ho intitolato il tatuaggio. Perché il tatuaggio? Perché una notte di fine primavera, una signora di una certa età entra in casa e trova suo marito morto sul letto. Né tagli, né collisioni, né spari, morto. Morto di tatuaggio? No, morto. Non c'entrava niente di tatuaggio, eppure c'entrava. Io ho fatto proprio una giravolta psicologica, sociologica, scientifica, grafologica, cioè mi sento di tutto. Insomma. Miscedania. Sì. Quest'anno poi che ho presentato, credo 2 anni fa, si è presentato anche al comandante dei carabinieri, all'epoca che mi aveva chiamato, mi fa, come mai scrivi? E l'ho spiegato, e mi fa, ascolta un attimo, ti ho letto, mi piace morire, scrivi qualcosa sui carabinieri a Bolzano. Avrei pensato sulla polizia a questo punto. No. Nella via di fronte. Scrivi qualcosa, visto che hai fatto il carabiniere, scrivi qualcosa sui carabinieri a Bolzano. Allora dico bene, adesso torno indietro, la mia fantasia, vado a prendere i vari spezzoni della mia vita, di quello che ho sentito, dei miei archivi, eccetera, eccetera, scrivo un giallo, bene, brutto giallo, con riferimenti agli anni 80, no, ma è successo oggi, allora bisogna fare le indagini così. Poi parlando con lui al bar, mi ha detto, ascolta, ma basta questi gialli. Facciamo qualcosa da ridere. E è andato questo. Che comunque anche il giallo non è facile da fare, no. Il giallo, no? Perché forse è anche da costruire con dei passaggi, delle esche, delle situazioni che portano poi a un finale, e il finale del giallo è in assoluto forse uno dei più difficili da trovare, che non deve essere scontato. Quindi cimentarsi con un giallo non è da poco, bravo. Non è tanto quello. Bisogna scolpire bene i personaggi per vedere se... Ho fatto già 2 corsi di scrittura creativa a Lupad, anche perché dico roba, ecco. E vi spiego un piccolo segreto. Cosa ho imparato? Cosa ho imparato? Per scrivere un qualsiasi libro, prima di tutto bisogna sapere la fine. La fine. Quando sei alla fine dici... La finalità. La fine. Da quello dici, bene, dove comincio? E l'inizio. Quando siano questi 2 punti qua, può essere 20 pagine, può essere 200 pagine, o 500 pagine, ma tutto quello che riesci a buttarci dentro. Basta che abbia poi una linea. Per sai dove devi andare. Ma devi sapere prima di tutto dove vuoi andare a finire. Chiaro. E poi per partire da dove? A scuola faceva bei temi? Arrivavo anche 6:30 qualcosa. Senta. Con l'aiuto qui, bene. Se posso suggerirle un altro soggetto o obiettivo, ha scritto sui carabinieri, forse è meglio che scriva qualcosa sui vigili urbani. Momento. Ma no, che si chiama polizia urbana, vigili urbani. No. I vigili sono fatti per prevenire incidenti, non per dare le multe. Polizia urbana, chiaro che stirate la via del polizia urbana, che ai miei tempi c'erano i vigili urbani che collaboravano con i cittadini. Noi siamo un laboratorio vivente di suggerimenti. No, ma poi, e a proposito dei vigili urbani, ovviamente lavorando in comune, non li ho, non li ho esclusi. Ci sono. Solo per darvi un nome. Non esiste la polizia urbana oggi. Sì, sì, vabbè. Ah, non è europeo. No, la polizia municipale, calma, non offendere. Municipale, sì. Ma, scusate, ad esempio, ho dato un nome a un vigile. No. Otto Strafen. Ma come l'ha chiamato? Otto Strafen. Che c'è un otto da noi, ma non si chiama Strafen. E qui ho Strafen. Ad ogni termine, sia dialettale che tedesco, ho fatto la traduzione sotto perché non capisco. Ah, per capire. E anche lì ho fatto un po' di rivolto. Ho parlato anche dei vigili urbani, sì. Bravo. E perché la macchina in copertina? Questa è la mia macchina di servizio. Ah, che un nome particolare. È la mia proprio. Denominata supposta. La macchina vi danno anche oggi. E io devo girare sempre tutti i giorni. Sì. Per la forma. Perché l'ho fatta, così? Qua il Manfredo, forse. Mi dire, due macchine. Una del sindaco e una dell'ufficio tecnico. Quattro. Questa praticamente è anche uno dei personaggi principali di tutta la trama. Perché ne ha fatte. Qui non l'ho sbugnato apposta, ho fatto una montatura. Mm-hmm. Però il collega ha detto che sono andato a sbattere e poi l'ha fatto riparare a spese mie per la copertina. E qualcuno ci ha anche creduto, calma. I programmi per il futuro, allora, vuoi dire qualcosa? Sì, il mio programma per il futuro praticamente... appunto, adesso spero che la gente mi legga, che capisca quello che io intendo... E mi sono detto una cosa, adesso siamo arrivati, abbiamo quasi 100 anni, diciamo, di Bolzano italiano, abbiamo parecchi anni anche di Bolzano civilizzata, tra virgolette, diciamo, dal fascismo, abbiamo la Bolzano che abbiamo oltre a noi, diciamo, che veniamo da tutte le parti d'Italia, siamo stati radicati qua, io che sono nato dopo, da una famiglia friulana, chi da una famiglia vente, chi da una famiglia marginale, eccetera, eccetera. Tutti abbiamo vissuto e respirato una cultura diversa. Perché Bolzano è sempre così divisa? Perché? Perché Bolzano è sempre così divisa? Perché non possiamo avere una cultura proprio univoca? Cioè proprio tutta concentrata a creare questa Ma nuova... L'importante non è sapere come è come fare, perché come io... Fare? È da quando sono qui che lotto per avere questa cultura, esatto. Qui. E, allora, e non si sa come che via prendere. E allora perché adesso non possiamo... Abbiamo la letteratura. Mi sono buttato la prima volta. L'unico modo è quella cultura. Mi sono buttato adesso, mi sono cimentato in questa parodia, raccontando cose vere che poi non sono vere, ma sono vere, ma non si sanno se... Allora, perché io adesso invito tutti, come ho invitato anche sul Corriere dell'Alto Adige, a scrivermi. Ognuno, chiunque, che la cosa si diffonde, il mio indirizzo, scrivermi, sei venuto, mio papà era operaio alla Lancia, mio papà faceva il falegname, mio papà era piastrellista, mio papà fa tutto. Bravo, Perché questo? Perché creerò Bolzano di domani, guarda che non è neanche tanto lontano, in cui avremo bisogno di questa gente qua. Ma è quello anche che per comunicarci ci lasceremo ancora il foglietto dietro la porta, capite? Per comunicarci. È quello perché che siamo divisi. Che facciamo anche noi come biblioteca, no? Perché poi alla fine la biblioteca è un ente pubblico e può anche custodire e lasciare nel futuro attraverso dei canali aperti, ecco, no? È lodevole chiaramente questa iniziativa, ma anche noi per esempio è da anni che facciamo l'angolo della memorialistica, quindi delle iniziative dedicate a persone che hanno scritto un diario o hanno scritto un memoriale in epoca successiva all'evento quando si è realizzato, e abbiamo visto che negli anni le persone hanno perso intanto quella forma di pudore che impediva magari di aprirsi e di comunicare i propri ricordi, perché magari spesso e volentieri sono ricordi di periodi di guerra, quindi non facili da ricordare per motivi anche personali, oppure non facili per motivi storici, perché chiaramente questo è stato un laboratorio a cielo aperto di quelle che sono stati i drammi non da poco, come lo è stato il fronte Giuliano per altri versi, eccetera, eccetera. Ma direi che è anche vero che è un veicolare le informazioni straordinario, perché abbiamo visto per esempio anche solo con le fotografie, quando magari diciamo vorremmo raccogliere delle foto su un certo tema e le persone vengono qui, ci raccontano legata a quella foto l'episodio della vita e da lì ci si allarga con il ricordo, e questo fa in modo che anche la biblioteca possa iniziare a ricostruire o a formare dei piccoli tasselli che possono essere utili. Chiaro, mancherà sempre la scientificità storica, ma dall'altra anche questi sono aspetti che fanno comunità, oppure possono permettere ad altre persone di conoscere anche come queste persone sono arrivate qui, come si sono ambientate. Lo stiamo facendo anche con i nuovi cittadini, chiedendo per esempio alle persone che sono arrivate negli ultimi 10 anni come si sentono qui a casa, ed è straordinario vedere le reazioni positive, tra l'altro nella maggioranza dei casi, che ci vengono riportate e le stiamo documentando. Quindi questo è un processo che sicuramente va fatto. No. Ed è un'autobiografia anche, no? Che viene promossa, e vedo che ci sono tutte persone che stanno iniziando questo percorso. Dobbiamo sottolineare una cosa, siamo arrivati adesso nel 2013, che, come dice la dottoressa qui, la gente viene qui e trova una cosa bella, perché viene adesso. Ma se fosse venuta 40 anni fa, quando eravamo veramente straseparati, veramente non potevamo. Non è vero. Noi, per noi giovani parlo di quando avevo 10-12 anni. 40 anni fa ero in comune, la vivevo. Eh sì, vabbè, ma quello eravamo quasi più uniti di adesso. Io che vivevo sulla strada, diciamo, no? Dire, cioè, eravamo. Tedeschi e italiani eravamo separati completamente. Siamo arrivati. Me la raccontano così, ma non era proprio così. No, beh, chi più chi meno. Chi più chi meno, insomma. Adesso noi diamo l'esempio proprio mondiale di una convivenza pacifica, di uno sviluppo, di un'economia che ancora. Relativamente pacifica. Ma no, dai, togliamo i politici, per piacere. Togliamo la politica, per piacere. Io parlo di noi, noi che siamo qui che parliamo. Ognuno ha le sue idee, anch'io l'ho vissute. E allora questi nuovi arrivati si trovano pensando, arrivano in una città, c'è stata la guerra, c'è stata questo, stanno bene. Allora, ma ripercorriamo un attimino veramente la strada, cioè in modo cioè io non sono più giovane, sì, sono più giovanissimo, insomma, ma se mi fossi trovato adesso qui, adesso, cosa vuoi? Internet, SMS, Facebook. Non vedo un proseguo molto umano di questa situazione. Sempre troppo tecnico, troppo economico, troppo. Ma non vale solo per qua. Sì, quello vale. Ma qui in particolare. Ma perché abbiamo questa multiculturalità, che adesso si aggiungono anche quelli che vengono da fuori nuovi? Ma facciamo questa roba bellissima, che possiamo parlare questo di questo desiderio, le aspirazioni di allora e di oggi e di domani. E allora perché non cominciamo? Abbiamo sempre predicato, sempre fatto, anche in comune ho cercato di farlo, non ero a contatto di così, ma ho avuto sempre una mente. Diciamo che per quanto riguarda internet e altre cose, sicuramente questi sono strumenti mondiali, quindi non è solo una situazione legata a Bolzano, e però per quanto ci riguarda forse ci hanno anche aiutato, perché noi vediamo che hanno aumentato la comunicazione e soprattutto sono andati oltre al territorio. Con? Si va oltre alla dimensione territoriale. Ah, sì. Quindi i ragazzini di 15-16 anni che io osservo quotidianamente in casa, vedo che della dimensione territoriale interessa relativamente. Hanno loro, vanno già oltre, insomma. Esatto. E hanno contatti con altre, sì, realtà, parlano in tedesco, in inglese e non. Cioè. Non hanno più, sì, questo, sì, problema del cortile. Ecco, noi magari viviamo una dimensione di cortile, dove la città aveva una conformazione, perché mi metto dentro nel suo periodo, dove i quartieri erano organizzati ancora in un certo modo, quindi era a livello civile più tangibile, sì, e non a livello professionale. Oggi si è un po' invertita la situazione, no? Quindi a livello civile siamo più... Ogni generazione ha il suo... visto i figli... Mescolati, cioè, c'è un'apertura nuova... Cioè, se andiamo avanti, no? Così veramente che la cultura, diciamo... L'intelligenza se ne va da Bolzano. La cultura bisogna, è la prima roba. Allora, torniamo come negli anni 40. Dicevano i latini, il carmine non dà pane, ma non è vero. La cultura, con la cultura, la poesia è quella carmine che non si mangia. Sì, ma deve rimanere, ma qua. C'è la cultura, è finita. Ma deve rimanere qua, non deve andarsene... Se no torniamo nel 36. Sì. Bolzano torna una grande fabbrica. Deve rimanere qua, deve arrivare, insomma, no? Cioè, può anche arrivare. Ci vogliono iniziative che. Cioè, come dire, siamo una comunità. No, scriviamo tutti, scriviamo tutti insieme. Scriviamo e leggiamo. Com'è? E leggiamo anche. Sì. A leggere anche, no? Sì. Quindi, tutti presenti. Non abbiamo neanche la biblioteca, è venuto qui, sono venuto qui questa biblioteca, aveva tre libri. Lei è pazza, adesso ci sono tre libri. Però il locale, povera. È venuto chi era l'assessore allora? Cigolla, Cigolla, latino, ladino, parlava, sono ancora qua, povero, neanche, no. Neanche un ricambio d'aria c'è. Cioè. No, ma adesso andiamo al polo. Ah, te puoi immaginare, adesso il polo. Il polo. Allora, facciamo così, siccome Pietro Carrara penso che da quello che abbiamo capito progredisce negli anni con la narrativa e... tocca vari generi, quindi si cimenta sempre sperimentando nuovi generi letterari. Allora ci diamo un appuntamento col prossimo libro qua in biblioteca e poi con gli altri invece lo faremo nel polo bibliotecario, insomma speriamo che venga realizzato anche presto, visto che i tempi ma sono mette abbastanza... Se mette la prima pietra di un bando nel 2003, ci vuole due tre anni, quindi siamo... dai. Faremo così. Allora, io faccio un ultimo appello, una richiesta a tutti qui presenti e anche chiunque conosciate che siano disponibili di scrivermi. Dai l'email. Di scrivermi, ma anche portare qua. L'email. Anche portare qua fisicamente un manoscritto. Oppure posso venire qua in biblioteca e poi ci sentiamo, sì, no? Sì, sì. Che così organizziamo qualche memorialistica con l'aiuto di. Ovviamente, se uno mi scrive Mario Rossi. Lo sommergiamo, non vive più. Se uno si chiama Mario Rossi, si chiama Carlo Gelsomini, ovvio, diciamo che faccio personaggi. Sì, verrà tutelata la privacy, insomma. Il minimo. Va bene. Dov'è? Allora, in bocca al lupo. E lì ci sono due. Ringraziamo. Dove sono gli altri li trovate qua? Sì, tutti, sì, no? Sì, ce li abbiamo. Qualsiasi biblioteca potete andare, tutte le biblioteche. Ma comunali. Vabbè, comprarlo. Non ha portato dentro niente, ma se ci mettiamo d'accordo. Vengo là, dove che... Va bene. Dove lo riposo? Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie. Grazie.